È una buona notizia che riguarda un progetto che insieme ad Autostrade e la Regione Emilia-Romagna si mette in campo. Il passante di nuova generazione dall'anno prossimo vedrà i cantieri partire, ma grazie a questa certificazione abbiamo da un osservatorio indipendente la certificazione esatta di quelli che sono gli obiettivi prestazionali di questo passante, che ridurrà di oltre 1350 tonnellate le emissioni di CO2, porterà 140 ettari di verde in più. Avremo, grazie anche a questi investimenti, nuovi parchi urbani che attraverseranno saranno i quartieri e una protezione attraverso diverse gallerie e altre tecnologie dalle emissioni nocive sulla città. Ricordo anche gli investimenti sulla tecnologia, l'importante progetto sul fotovoltaico. Sappiamo quanto il nostro paese oggi abbia bisogno di energie rinnovabili. Grazie all'accordo con Autostrade realizzeremo un parco solare da 50 MW capace di fornire l'energia a oltre 18.000 famiglie. L'impatto per i residenti sarà comunque pesante, diciamo. Sicuramente i cantieri andranno seguiti, abbiamo costruito un gruppo di lavoro molto valido con Autostrade e con la Regione, stiamo facendo i sopralluoghi e ci saranno ovviamente, come per i cantieri del tram e gli altri cantieri della nostra città, con la cabina di regia infrastrutture, tutte le attenzioni affinché questi lavori si facciano bene, si facciano presto e che i disagi siano il minimo. Le ulteriori gallerie con i sistemi di filtraggio però restano legate a uno studio che dovrà farle poi concretizzare in fase 2. Voi restate fiduciosi che Autostrade mantenga i patti, diciamo. Beh, noi siamo molto motivati sia intanto a far realizzare il primo progetto, diciamo quello che qui ottiene la certificazione e che deve partire con i cantieri. C'è un osservatorio ambientale che abbiamo chiesto, stiamo individuando le figure che andranno al loro interno, quindi intanto vogliamo che il progetto 1 parta bene e con gli impegni assunti. Sulla fase 2 stiamo iniziando a lavorare con Autostrade, ci sono anche nuovi fondi europei che possono arrivare che potranno finanziare anche le novità, quindi insieme alla Regione siamo stati a Bruxelles proprio nelle settimane precedenti e siamo fiduciosi sul fatto che potranno arrivare anche risorse per completare la fase 2.